24. La storia. 451 vittime, 2.500 feriti, 12.700 attentati. E questo è il bilancio della stagione degli anni di piombo che dal 1969 al 1987 ha segnato la storia d'Italia del dopoguerra. Sono gli anni del terrorismo. Noi oggi a Mix 24 continuiamo a ricordare queste vittime, magistrati, politici, poliziotti, carabinieri, giornalisti, persone comuni, vittime innocenti di una follia che ha rischiato di travolgere il nostro paese. E allora oggi, nell'anniversario della sua morte, il 24 gennaio del 79, parliamo di Guido Rossa, sindacalista genovese del Partito Comunista che ha pagato con la propria vita il coraggio di opporsi alla furia omicida delle Brigate Rosse. Così lo descrivono la figlia e gli amici. Era un padre affettuoso, un padre dolce, presente, allo stesso tempo veniva fuori anche una parte di severità e rigore. Guido Rossa si sentiva tutto meno che un eroe. L'abbiamo lasciato solo. Tutti lo guardavamo come l'esempio da prendere e da seguire. Lo definirei sicuramente un grand'uomo e lo definirei l'eroe del quotidiano. Come il mio grande maestro lo definirebbe padre Balducci, cioè un uomo inedito. Un uomo inedito, un uomo che negli anni più duri della lotta armata non ha esitato a fare una scelta difficile ma coraggiosa, una scelta di grande significato morale e civile. Questo è stato Guido Rossa, operaio, sindacalista dell'Italsidere, ucciso a Genova a soli 44 anni, il 24 gennaio del 79, da un comando delle BR. E noi oggi vi raccontiamo la sua storia, così il ricordo della figlia. Buonasera, le principali notizie di oggi. Le Brigate Rosse assassinano a Genova un sindacalista dell'Italsidere. Io ho dei ricordi del giorno stesso, perché è successa una cosa assolutamente particolare, e perché io sono passata alle 7 del mattino, quando quel 24 gennaio è completamente buio, a fianco all'auto dove dentro c'era ancora mio padre, e non mi sono accorta di nulla. Fui avvisata a scuola da un insegnante che mi diceva che è successo un incidente, e mi venne a prendere la mamma di una compagna di classe, mi portò a casa e mi resi conto, non del tutto, ma che era successo qualcosa di grave, insomma, proprio mentre arrivavo sotto casa, perché assolutamente ero all'oscuro di tutto, fino a che non mi è venuta incontro mia madre dicendomi hanno ammazzato papà. Le prime telefonate arrivano dai cronisti sul posto e confermano quello che nessuno sarebbe mai immaginato. Mi dicono: hanno ucciso Guido, un altro, hanno ammazzato Guido Rossa, siamo qui con i familiari, siamo qui con la figlia. Insomma, sono telefonate drammatiche, telefonate di persone non facilmente emozionabili, però in quel giorno successe veramente qualcosa di particolare. Avete sentito Marco Francalanci, giornalista del Secolo XIX. Una giornata terribile, quella di mercoledì 24 gennaio del 79. E quello di Guido Rossa è un omicidio che cambierà per sempre la storia del terrorismo in Italia. Per la prima volta, infatti, le BR hanno scelto di colpire un operaio, un sindacalista, un militante del Partito Comunista. Ma perché proprio Guido Rossa? E soprattutto chi era Guido Rossa, per provare a capire quest'uomo? Allora partiamo dal suo amore per la montagna e per le scalate e da una spedizione in Nepal del 63. Così il ricordo dell'amico Dino Rabbi. Il 28 ottobre il gruppo degli scalatori Alberto Risso, Andrea Mellano, Dino Rabbi e Guido Rossa si divideva in due squadre che affrontavano simultaneamente una vetta senza nome, battezzata poi Città di Torino, e la vetta del Chiungari, giungendo sulle cime il giorno stesso. Per Guido Rossa e per noi, un po' tutti, la montagna rappresentava il terreno della libertà, in sostanza, dove si poteva passare delle giornate nella natura, con delle esperienze anche forti. aveva questo desiderio del nuovo, era come dire un capo naturale, riconosciuto, ecco. Questo era una cosa che veniva subito evidente nel suo modo di fare, nel prendere le decisioni nel modo più opportuno, nei momenti difficili. Un episodio, direi, in parte drammatico, in parte dove esce fuori tutta la sua personalità, insomma la padronanza della situazione, è quello nell'occasione dell'incidente che ha avuto in Valsuera. Ha messo il chiodo, il compagno si è messo sul chiodo e mi ha detto: come mi sono messo sulle corde, il chiodo è uscito fuori, mi ha beccato qui in fronte e io sono venuto giù, ed è passato 30 metri sotto dove c'erano i due che l'hanno abbrancato e fermato, perché altrimenti saltava giù, era morto. Dopo questa esperienza, dopo questo salto non indifferente, lui ha comandato per tutta la discesa, la sua discesa, con una gamba rotta. E io l'ho visto al mattino, quando siamo andati su come squadra di soccorso a prenderlo, che scendeva in doppia da questa parete e dava disposizioni agli altri che erano su di come dovevano operare. Cioè, uno dopo un incidente di quel genere deve avere una padronanza, un sangue freddo straordinario. Un grande alpinista dunque, ma soprattutto un leader naturale. Ma poi per Guido Rossa la montagna non basta più. Poi il 68, il movimento operaio, per Guido Rossa è arrivato il momento di riversare tutta questa passione dimostrata in montagna nell'impegno politico e sindacale. È lui stesso nel febbraio del 70 a spiegare in una lettera a un suo amico il motivo di questa scelta. Letta per noi da un grande attore, Tullio Solenghi. Ottavio carissimo, l'indifferenza, il qualunquismo e l'ambizione che dominano nell'ambiente alpinistico in genere, ma soprattutto in quello genovese, sono tra le squallide cose che mi lasciano scendere senza rimpianto la famosa lizza della mia stagione alpina. Da ormai parecchi anni mi ritrovo sempre più spesso a predicare agli amici che mi sono vicino l'assoluta necessità di trovare un valido interesse nell'esistenza. Un interesse che si contrapponga a quello quasi inutile dell'andare sui sassi, che ci liberi dal vizio della droga che da troppi anni ci fa sognare e credere semidei e superuomini, chiusi nel nostro solidale egoismo, unici abitanti di un pianeta senza problemi sociali, fatto di lisce sterili pareti sulle quali possiamo misurare il nostro orgoglio virile, il nostro coraggio, per poi raggiungere il meritato premio. Un paradiso di vette pulite, perfette, scintillanti, dove per un attimo o per sempre possiamo dimenticare di essere gli abitanti di un mondo colmo di soprusi e di ingiustizia, di un mondo dove un abitante su tre vive in uno stato di fame cronica, due su tre sono sottoalimentati e dove su 60 milioni di morti all'anno 40 milioni muoiono di fame. Per questo penso che anche noi dobbiamo finalmente scendere giù, in mezzo agli uomini, a lottare con loro, allargare fra tutti gli uomini la nostra solidarietà, che porti al raggiungimento di una maggiore giustizia sociale, che lasci una traccia, un segno tra gli uomini di tutti i giorni e ci aiuti a rendere valida l'esistenza nostra e dei nostri figli. E vedi un po' di perdonarmi. Un abbraccio. Guido Rossa. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di un uomo coraggioso e inedito, Guido Rossa. Rieccoci a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia del sindacalista Guido Rossa. Purtroppo la maggior parte degli impianti industriali genovesi è vecchia e inadeguata e quasi tutte le altre industrie sono in crisi. La piena utilizzazione della forza lavoro dovrebbe essere considerato obiettivo primario di una corretta politica di piano. Invece, purtroppo si chiudono le fabbriche e si cerca di utilizzare quelle aree per nuove speculazioni immobiliari, realizzando notevoli profitti a danno della comunità. I temi della giustizia sociale lo avevano assorbito con la stessa determinazione che prima lo avevano portato altre passioni a scalare le montagne, quindi il suo tempo era totalmente dedicato alla politica e all'impegno sindacale, no? Infatti coincidono appunto, questi sono gli anni 70 in cui viene appunto eletto delegato di reparto. Frequentava anche lui i giardinetti sotto casa, veniva quando ero con altri bambini, con coetanei, si inventava giochi, entrava assolutamente in comunicazione con tutti, era affettuoso, era simpatico, cioè i miei coetanei lo trovavano quasi un compagno di gioco. Era una persona con un altruismo eccezionale. Noi qui avevamo dei casi purtroppo di persone, di compagni di lavoro che avevano dei grossi problemi fisici e lui era sempre pronto a intervenire, ad aiutarli e logicamente ti coinvolgeva, perché magari dobbiamo andare a dare una mano, prendeva il telefono, Gianni vieni che andiamo, ed era talmente capace, talmente coinvolgente che era quasi impossibile dire di no. Amico. Aveva quello che si suol dire il panico da microfono. Non riusciva mai ad andare in un'assemblea a fare interventi perché tanto era preciso, puntiglioso nel documentarsi, tanto era, non riusciva ad esprimere tutte queste sue capacità. Dato che viceversa io non scrivevo molto, però riuscivo con una certa capacità a parlare, eravamo diventati una sorta di... Lui prendeva gli appunti, poi mi dava i documenti, mi diceva ora tu vai là e spiega questo... Cosa avevano deciso nelle assemblee. Avete sentito l'amico di Guido, operaio dell'Italsider, Gianni Barabino. Le assemblee, il sindacato, la fabbrica, la Genova degli anni 70. La Genova di Guido Rossa è una città dura, piegata dalla crisi della siderurgia, ma anche smarrita di fronte alla nascita di un fenomeno nuovo, drammatico, le Brigate Rosse. Una città impaurita, lacerata, confusa. Un centro nevralgico del terrorismo. Da sempre, con le sue acciaierie e il suo porto commerciale, Genova è uno dei motori dell'industria italiana. Negli anni 70 il sistema industriale e produttivo entra in crisi. L'industria siderurgica non è più competitiva. Il porto perde la sua preminenza nel Mediterraneo. Le prime a essere colpite sono le industrie. La nuova parola diventa ristrutturazione, ovvero un drastico ridimensionamento della presenza operaia in fabbrica. I sindacati cercano di imporsi, ma con scarsi risultati. È su questo terreno che vogliono incidere le Brigate Rosse. Così la testimonianza dell'ex brigatista della colonna genovese Enrico Fenzi. Le nostre speranze non erano tanto nel reclutare, diciamo così, dei capi operai, era quella di creare una situazione esplosiva portando alla luce la contraddizione fondamentale che in quel momento attraversava il sindacato e il partito, i quali, io penso, si rendevano perfettamente conto che il destino delle grandi fabbriche e quindi della classe operaia genovese era segnato, e nello stesso tempo dovevano gestire in accordo con i loro elettori e con questa classe operaia questa stessa fine. È stato rapito questa sera a Genova il sostituto procuratore della Repubblica Mario Sossi. Genova, 18 aprile 1974. Le BR rapiscono il sostituto procuratore della Repubblica, Mario Sossi. Un'azione che fa scalpore e mobilita l'Italia intera. Di fatto sarà la prova generale del sequestro Moro. Dopo il caso Sossi, alla guida delle BR c'è Mario Moretti. È lui a riorganizzare la colonna genovese dopo gli arresti di Curcio e Franceschini in una strategia che mira a portare l'attacco al cuore dello Stato su tutto il territorio. Tra il 1974 e il 1980 a Genova le BR mettono a segno 9 omicidi e 14 gambizzazioni. È come un bollettino di guerra. 8 giugno 1976, ucciso Francesco Cocco, procuratore capo di Genova, si era opposto alla liberazione dei brigatisti chiesta per il rilascio di Mario Sossi. 1 giugno 1977, gambizzato Vittorio Bruno, vice direttore del Secolo XIX. 28 giugno 1977, gambizzato Sergio Prandi, dirigente Ansaldo. 11 giugno 1977, gambizzato Angeli Villa, segretario regionale della DC. 17 novembre 1977, gambizzato Carlo Castellano, dirigente Ansaldo e membro del direttivo del Partito Comunista Italiano. 18 gennaio 1978, gambizzato Filippo Peschiera, democristiano, professore universitario. Così parlava Giulio Andreotti il 16 marzo del 1978. Imboscata tesa stamane all'onorevole Moro, con l'uccisione di 4 agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega, pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione. 16 marzo 1978. Le BR recapitano a Genova il primo comunicato di rivendicazione del rapimento Moro. Pochi giorni dopo, un volantino del collettivo dei portuali genovesi dichiara: né con lo Stato né con le BR. 7 aprile 78. Gambizzato Felice Schiavetti, presidente dell'Associazione degli Industriali Genovesi. 4 maggio 78. Gambizzato Alfredo Lamberti, dirigente Italsider. Questa è la testimonianza di Luigi Carli, procuratore della Repubblica di Genova. Le Brigate Rosse si erano sviluppate a Genova soprattutto in ambito universitario, con uno scarso addentellato nell'ambito operaio o operaistico e una presenza non consistente nell'ambito dell'Italsider e dell'Ansaldo, soprattutto nell'Italsider era più accentuata, e poi con qualche altra presenza, ma con delle figure un po' particolari che non possono definirsi operaistiche o di tipo operaio, perché la colonna genovese si caratterizzava soprattutto per l'impianto militarista. La città vive un clima di paura, la gente non esce di casa la sera, le strade sono deserte, magistrati, poliziotti, giornalisti, professionisti, tutti vivono nell'incubo di diventare bersaglio della violenza terroristica. Un'emittente locale, Telecittà, organizza un dibattito con la linea aperta per telefonate degli spettatori. Una voce maschile porta la sua testimonianza. E qua si è assistito a un attentato delle Brigate Rosse. E dopo interrogatori, foto segnaletiche, probabilmente ho riconosciuto uno di questi attentatori. Io ho famiglia, ho moglie, ho figli, non posso permettermi di fare così. Non ero solo per la strada, anzi c'erano un sacco di altre persone. C'era della gente che invece dalla posizione in cui era, dalle finestre, ha visto tutto quanto, però è stata zitta. Io per esempio fui uno dei primi ad avvicinarmi e a controllare che avessero chiamato l'autoambulanza. Ho aiutato il ferito, insomma. E poi mi andai a lavare le mani, ero tutto sporco di sangue, tranquillamente, con un giornale sotto in braccio. Anni terribili, insomma, a Genova. Ma qual è il clima che si respira dentro la fabbrica, dentro l'Italsider dove lavora Guido Rossa? Questa è la testimonianza dell'amico operaio come lui, Gianni Barabino, e della figlia Sabina. In quel periodo nei consigli di fabbrica, non solo nel nostro ma un po' in tutti, c'era forse parecchia confusione o forse parecchia, diciamo così, impreparazione a un'eventualità del genere. Perché, bisogna anche dirlo chiaramente, erano l'epoca in cui certe tendenze nell'ambito del mondo del lavoro, a Genova in particolare, circolavano, anche alcuni consigli di fabbrica, le frasi tipo né con le Brigate Rosse né con lo Stato, sono i compagni che sbagliano, quindi c'era una sorta un po' di impreparazione reale a questo problema qua. Io penso che lui avesse ben chiaro una cosa, che i brigatisti erano ben altro che i compagni che sbagliano, e quindi, cioè, in questo senso lui ha fatto quel che ha fatto, perché credeva che, insomma, il futuro del nostro paese non poteva rimanere in quel clima di ambiguità. Bisognava assolutamente porre un cuneo alla pervasività, perché anche la pervasività che è caratteristica della mafia era a quell'epoca una caratteristica anche del terrorismo, perché vi erano allora appunto connivenze, vi erano compiacenze e sappiamo sia all'interno delle fabbriche che nelle università, insomma, il moto né con lo Stato né con le BR era ampiamente sostenuto. Paura e ambiguità, dunque. E però per Guido Rossa quello slogan né con lo Stato né con le BR è uno slogan assolutamente inaccettabile. La sua è una scelta chiara e definitiva ed è una scelta che pagherà caro prezzo. Tutto ha inizio un martedì mattina, è il 24 ottobre del 78. Così il ricordo di Gianni Barabino, amico di Guido Rossa e operaio dell'Italsider. Il 24 ottobre alcuni compagni vennero ad avvisarci che qua fuori, dove c'era allora la macchinetta distributrice del caffè, avevano trovato dei volantini delle Brigate Rosse ripiegati, nascosti dietro la macchina del caffè. Uscimmo subito all'improvviso per vedere se era possibile individuare chi era stato e vedemmo allontanarsi in bicicletta il Berardi. Cercammo di chiamarlo per invitarlo a venire qua a eventualmente giustificare qualcosa. Questo viceversa si allontanò progressivamente aumentando l'andatura. Avvisammo la vigilanza in maniera da cercarlo nell'ambito dello stabilimento anche con i mezzi della vigilanza. E il fatto poi importante è che se sostanzialmente il Berardi, quando fu preso dal Consiglio di Fabbrica, non si dichiarava prigioniero politico, non esistevano dei dati fondamentali che lo avessero potuto indicare come un appartenente alle Brigate Rosse. Mi dichiaro prigioniero politico. Era questa la frase di rito di tutti i terroristi arrestati. Per Guido Rossa e per tutti i suoi compagni di fabbrica, quella frase pronunciata da Francesco Berardi, un altro loro compagno di lavoro, è come una confessione. Ma chi era allora Francesco Berardi? Bentornati a MX24, oggi stiamo raccontando la storia di Guido Rossa, sindacalista e operaio ucciso dalle BR. Sono gli anni in cui il terrorismo si fa strada all'interno delle fabbriche. Dietro la macchinetta del caffè dell'Italsider di Genova, Rossa e i colleghi trovano volantini di propaganda delle Brigate Rosse. Chi li ha portati in fabbrica? I sospetti vanno tutti sull'operaio Francesco Berardi. Ma chi era Berardi? Queste le testimonianze dell'amico di Guido Rossa, Gianni Barabino, e dell'ex brigatista Enrico Fenzi. Era un personaggio che circolava un po' spesso intorno al consiglio di fabbrica o meno, però era una persona, definiamola così, che l'avremmo giudicata innocua. Quindi rimanemmo piuttosto sorpresi tutti. Il problema fu che quando si dichiarò prigioniero politico, automaticamente tutte queste nostre valutazioni decadero all'improvviso. Era un operaio Italsider specializzato che aveva fatto anche degli stage di specializzazione negli Stati Uniti. Quindi era un operaio con una qualifica professionale piuttosto alta. Un operaio entusiasta, generoso, era però anche un operaio profondamente frustrato. Perché per non so quali motivi non faceva il lavoro per cui era specializzato e che aveva fatto. Lui era feroce contro l'azienda che spremeva gli operai e poi li declassava. E non riesco in effetti a distinguere molto la storia, la vicenda di Berardi dalla vicenda di Rossa, perché quella di Rossa ha avuto questo grande valore simbolico, ma io non l'ho vissuta direttamente, ho vissuto direttamente quella di Berardi, che ho conosciuto e che si è praticamente suicidato sotto i miei occhi a Cuneo. Ma torniamo a quella mattina del 24 ottobre del 78. Francesco Berardi, sorpreso a diffondere i volantini delle BR in fabbrica, viene immediatamente fermato e Guido Rossa è in prima fila nel denunciare il suo compagno di lavoro. Sentiamo l'ex operaio Italsider Gianni Barabino e l'allora vice segretario della CGIL Ottaviano Del Turco. Guido era stato portato come principale testimone lì davanti proprio dalla palazzina della vigilanza ed era stato fatto entrare e fatto sedere nel corridoio, in maniera tale che quando quelli della vigilanza portarono il Berardi, questi vide tranquillamente Guido Rossa praticamente l'unica persona che sostanzialmente lo avrebbe accusato. Il Berardi, dichiarandosi prigioniero politico, intervennero i carabinieri e fu portato via. C'era il distinguo se doveva intervenire il consiglio di fabbrica nella sua interezza o se viceversa era una cosa che doveva riguardare coloro che erano stati, diciamo, testimoni indiretti di tutta la vicenda. Sostanzialmente rimase come unica figura, unico accusatore, unica fonte di tutto il movimento operaio che si schierava in prima persona contro le Brigate Rosse, è rimasto Guido Rossa. Perché era quello che aveva visto, era l'unico che aveva visto, per una ragione banalissima, perché non si possono fare denunce di relato, come dice il codice. Guido Rossa mi ha detto di aver visto Berardo mettere rifiuto. Guido Rossa aveva visto, fu lui che firma perché lui aveva visto. Io credo che quella scelta non fu una scelta facile. Fu una scelta che sicuramente lo fece pensare, non credo che lo lasciò nemmeno tranquillo. Quando si denuncia un compagno di lavoro lo si fa da soli e lui l'ha fatto da solo, l'ha fatto in estrema autonomia, con estrema cognizione di quello che stava facendo. Appunto, lui ha capito quello che il suo gesto avrebbe, come dire, rappresentato, cioè avrebbe posto uno spartiacque tra chi era al di qua e chi era al di là. Avete sentito Sabina, la figlia di Guido Rossa? Egli dunque è determinato ad andare avanti. Per lui questo episodio ha un significato molto più importante della denuncia di un singolo fiancheggiatore delle Brigate Rosse. E Guido Rossa, lo abbiamo sentito, è il primo a denunciare il suo compagno. Ma Guido Rossa è anche il solo a firmare quella denuncia e sarà solo anche nell'aula del tribunale nel processo per direttissima contro Berardi. Così la testimonianza della figlia Sabina e dell'amico Gianni e poi Ottaviano Del Turco, vice segretario della CGIL nel 79. Lui non disse nulla a nessuno, è andato là da solo e il processo si è concluso nel giro di 2 ore. Direi che tutto il meccanismo processuale è stato ampiamente sottovalutato. La stampa è stata feroce nella descrizione di mio padre al momento in cui è andato a testimoniare, in quanto lo descrivono come un uomo barbuto che, insomma, entra e non alza mai lo sguardo in direzione di chi accusa. E allo stesso tempo lo stesso PM di allora, Di Noto, si fece scappare una frase dicendo: ma insomma, questa è una bega tra, non è altro che una bega tra operai. Direi che sia gli inquirenti che i magistrati hanno avuto un atteggiamento come quello per disfarsi al più presto possibile di una cosa che consideravano come una patata bollente allora. Noi delegati dell'officina, mi ricordo, facemmo anche un documento in cui accusammo apertamente anche la CGIL FIOM, dicendo che non voleva scendere in campo apertamente come gruppo, proprio per, come sindacato, proprio per fronteggiare questo fenomeno. Forse la CGIL, dato che c'erano anche differenze sostanziali tra le posizioni della CGIL, della CISL e della UILM su questa voler adesione così, probabilmente la CGIL optò per un voler inasprire queste differenze. No, non ci furono dissensi gravi tra CGIL e CISL UIL. Alcuni pensavano che lo strumento per difendere Guido Rossa era una sorta di autodenuncia collettiva, ma era dal punto di vista processuale improponibile, perché era improponibile la partecipazione a un processo dicendo noi abbiamo visto insieme a Guido Rossa, no, l'aveva visto Guido Rossa, e dal punto di vista processuale era la sua testimonianza che contava. Ci fu anche il giorno stesso del processo una partecipazione, ma ci fu una partecipazione sindacale a livello individuale, sostanzialmente sul palco dei testimoni salì soltanto lui. Tanto è vero che si disse che durante il processo il Berardi fece un segno della croce quando lui andò a testimoniare. Questo è un aspetto purtroppo che ci pesa ancora adesso, no? Il 31 ottobre del 78 Francesco Berardi viene condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, ma per Guido Rossa è cominciato il conto alla rovescia e da quel momento infatti il suo destino è segnato. Anche il sindacato capisce il pericolo e si organizza in qualche modo per proteggerlo. Ancora Ottaviano Del Turco e Sabina, figlia di Guido Rossa. Pochi sanno che una squadra di operai dell'Italsider fu organizzata dal sindacato per andare a prendere a casa Guido Rossa e per riaccompagnarlo la sera a casa quando finiva il suo turno di lavoro, perché avevamo consapevolezza che la denuncia di Guido potesse rappresentare un rischio per la sua incolumità, per la sua vita. L'unica cosa che mi disse in quei giorni, in quei mesi, mi disse: se dovessero cercarmi al telefono tu non sai nulla. Mia madre era al corrente e so che era anche visibilmente preoccupata, insomma. Durante la fine di una cena, appunto, diceva: ho fatto questa denuncia. Lei chiese: ma perché? Cioè, perché solo tu? Lui ci scherzava su questo fatto, diceva: ma prima o poi va a finire che mi gambizzano. Per qualche tempo questa scorta, diciamo, organizzata dal consiglio di fabbrica dell'Italsider, funzionò perfettamente. Fu quando Rossa disse: non ce la faccio più, per favore, non mi potete far vivere una vita così drammatica, essere atteso tutte le mattine da 4 operai sotto casa, essere riaccompagnato tutte le sere da 4 operai. Le sue trasferte domenicali erano scandite qualche volta anche da questa presenza. Ad un certo punto non ce la fece più, disse: per favore, non togliamo la scorta. Io ricordo che passando, quando dissi: ma forse non abbiamo commesso un'imprudenza, non ti sembra di aver rinunciato a una cosa importante? Questa cosa qui, scrollò le spalle, andò avanti, si mise seduto al suo posto. Quasi nessuno conosceva i timori di Guido. Questi ricordi dell'amico Franco Ribetti e della figlia Sabina Rossa. Io mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo visti, purtroppo, era a Torino in occasione del convegno dell'Accademico, e lui mi ha detto proprio così, senza mezze parole: ho lavorato tanto per il sindacato, e c'era già stata la denuncia del brigatista, eccetera, e adesso mi ha detto: adesso mi fanno fuori, cioè adesso mi fanno fuori. Ma mi molunen, aveva detto, mi molunen vuol dire io non mollo. Gli era stata data anche fornita un'arma, ma so che l'ha portata per un certo periodo di tempo, e quando una volta gli è successo di metter la mano in tasca perché ha avuto, come dire, un sospetto che poi si è rivelato assolutamente infondato, ha deciso di non portarla più con sé. Ma non ti danno una scorta, non c'hai qualcuno sotto casa che venga a vedere? Ma no, dice, tanto se avevo femme fuori, mi fanno fuori. Cioè, tanto se mi vogliono far fuori, mi fanno fuori. Che mettano il carabiniere o no, se non mi fanno fuori sotto casa, mi faranno fuori al bar o in qualche altro posto, in macchina, come è successo poi in macchina. Guido Rossa dunque viene lasciato solo, nessuna scorta, nessuna protezione, è una triste consapevolezza: se mi vogliono far fuori, mi fanno fuori. Bentornati a Mix24, Guido Rossa, sindacalista e operaio, grande alpinista e uomo coraggioso. La sua, una scelta difficile. Denunciare quello che ha visto, la presenza delle Brigate Rosse nell'Italsider di Genova, la sua fabbrica. Ma nella sua denuncia Rossa resta solo. Questa è la ricostruzione dell'ex brigatista della colonna genovese Enrico Fenzi e del procuratore della Repubblica di Genova Luigi Carli. L'intenzione delle Brigate Rosse era di non uccidere Guido Rossa, ma di in qualche maniera punirlo o indicarlo al discredito generale, ma neanche ferirlo. Inizialmente a me è rimasta l'impressione che non ci sia stata nessuna decisione in questo senso, che la decisione fosse tutt'altra e che questo omicidio sia avvenuto perché qualcuno lì ha perso la testa, perché ha avuto un attimo di follia, perché non so spiegarmi. Mi è stato anche detto che il gruppo se n'era andato e che uno si era attardato, si era fermato e aveva fatto questa cosa, che poi era stato anche minacciato di morte lui stesso per aver combinato, per aver fatto questo. Per quanto riguarda la vicenda tristissima di Rossa, che poi rappresentò tra l'altro la fine delle Brigate Rosse, una delle cause della fine delle Brigate Rosse a Genova, fu una decisione sofferta e dal punto di vista giudiziario non mai completamente accertata, perché sulla fine di Guido Rossa, almeno per le indagini che ho fatto io, si combattevano due tipi di versioni. Una prima versione dice che l'uccisione di Guido Rossa fu un fatto accidentale e non voluto, forse determinato dalla concitazione, da una certa incapacità militare o altre situazioni di questo genere. L'altra versione fu invece che fu una decisione presa direttamente da Riccardo Dura, il quale decise, e mi fu ribadito ancora questo, cioè in contrasto con le decisioni, con le valutazioni e con le determinazioni che c'erano state a livello centrale del Brigate Rosse di uccidere. Fatto sta che ci sia stata una volontà precisa di ucciderlo, oppure che ci sia stata semplicemente la volontà di invalidare Guido Rossa, però ci fu poi una assunzione di paternità indiscutibile da parte del capocolonna della colonna genovese, che era Riccardo Dura. A uccidere Guido Rossa sono Vincenzo Guagliardo, Lorenzo Carpi e Riccardo Dura, capo del comando brigatista. È lui, Riccardo Dura, che decide che Rossa non va gambizzato ma ucciso. A meno di un anno e mezzo dall'assassinio Moro, l'omicidio di Guido Rossa suscitò un'emozione enorme in tutto il paese. Al suo funerale parteciparono 250.000 persone, tutti i segretari di partito rappresentati in Parlamento e il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Se il gesto di coraggio civile compiuto dal compagno Rossa non fosse rimasto troppo isolato, forse la vita di questo nostro compagno non sarebbe stata spezzata. C'è anche che chi dopo una tragedia del genere si suicida, cioè chi cade in depressione, chi non esce più. Io ho rimosso. Io mi sento ancora oggi responsabile della sua morte. Mi sento responsabile perché, essendo uno dei compagni più vicini a lui, ritengo che avrei dovuto far qualcosa di più. Onestamente non so cosa. Mi telefonò mia moglie e mi disse: hanno ucciso Guido. Io ero lì che stavo facendo qualcosa, non mi ricordo, ho preso un telegrafo e a momenti butto giù il telegrafo. La prima reazione è stata quella lì, poi senza aspettare niente ho preso, sono uscito dall'ufficio, ero lì nel palazzo di Corso Inghilterra, la sera. E stranamente, come sono uscito, ho visto che non era soltanto una cosa mia, ma c'era un mucchio di gente che usciva. Nessuno aveva dichiarato sciopero, niente. Avete sentito gli amici di Guido, Gianni Barabino e Dino Rabbi. L'Italia intera è sconvolta e piange Guido Rossa. La sua fine segna anche uno spartiacque definitivo nella lotta al terrorismo. Un anno più tardi, grazie alla confessione di Patrizio Peci, i carabinieri individuano i covi di Via Fracchi a Genova, a pochi metri di distanza da dove è stato ucciso Guido Rossa. Nel conflitto a fuoco muoiono 4 brigatisti, tra cui anche l'esecutore materiale del delitto di Rossa, Riccardo Dura. Ma la morte di Guido Rossa segna anche una rottura più profonda nelle fabbriche, nella società italiana, ed è l'eredità di una scelta difficile e coraggiosa. Questo il ricordo di chi gli stava a fianco. Parecchi di noi, lavoratori, così, per un fatto che il fare la spia, così come si crede a volte, Ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa, col fatto, ed è stata una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui. La morte di Guido segna una tappa, diciamo, fondamentale nella guerra contro il terrorismo, guerra del sindacato, guerra delle istituzioni, perché per la prima volta noi riusciamo a cogliere con grande esattezza, con una percezione che si toccava con mano, che il clima nelle fabbriche era cambiato nei confronti dei brigatisti. Se qualcuno pensava che si trattava di compagni che sbagliavano, secondo una formula sfortunata che fu evocata in quel periodo, da quel momento in poi questa frase scomparve dal nostro linguaggio. Non erano compagni che sbagliavano, erano degli assassini. Sicuramente posso solo dire che avevo la percezione che fosse un uomo di alto spessore morale, che aveva un grande senso, un forte senso dei valori, e che si fondavano su quei principi di uguaglianza, di libertà, di giustizia sociale, perché gli stessi concetti erano quelli che poi filtravano in quella che era l'educazione quotidiana. Questo sapersi dare dei valori è la cosa che secondo me Guido ci ha lasciato, perché ha saputo seguire questi valori pur sapendo di essere stato lasciato solo, li ha saputi seguire con estrema dignità e con estremo coraggio da solo. Direi che il sacrificio di Guido Rossa, dice, era come un messaggio. Compagni, lavoratori, lavoratrici, continuate a lottare, ma fate la scelta della non violenza. Per questo penso che anche noi dobbiamo finalmente scendere giù, in mezzo agli uomini, a lottare con loro, allargare fra tutti gli uomini la nostra solidarietà, che porti al raggiungimento di una maggiore giustizia sociale, che lasci una traccia, un segno tra gli uomini di tutti i giorni e ci aiuti a rendere valida l'esistenza nostra e dei nostri figli. Riccardo Dura, l'esecutore materiale dell'omicidio di Guido Rossa, è stato ucciso dai carabinieri il 28 marzo 1980 nell'irruzione del covo di Via Fracchia. Vincenzo Guagliardo, arrestato nel 1980, è stato condannato a 28 anni di reclusione, attualmente in regime di semi-libertà condizionale. Lorenzo Carpi, il terzo componente del comando, è stato condannato all'ergastolo, è tuttora latitante. X24 torna lunedì in diretta, come sempre alle 9. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.